La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 92. Il governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri. Con l'articolo 92 la Costituzione passa a disciplinare il governo. Non è un caso che il governo venga collocato dopo il Presidente della Repubblica e dopo il Parlamento, perché l'Italia è una Repubblica parlamentare e come tale il potere risiede soprattutto nei rappresentanti del popolo. L'articolo 92 precisa che il governo è composto da tre organi, l'organo collegiale, il Consiglio dei Ministri, poi i singoli ministri e il Presidente. Il Presidente del Consiglio si configura quindi come primus inter pares, cioè come un ministro pari agli altri ma con funzioni di maggiore responsabilità. Infatti l'Italia non è una repubblica presidenziale in cui il Presidente del Consiglio assume direttamente le sue funzioni e le assume per mandato popolare, ma la nomina sarà sempre mediata dalla fiducia parlamentare. Infatti è il Parlamento che individua il governo. Il secondo comma dell'articolo 92 precisa il procedimento di formazione del governo, perché il Presidente della Repubblica a nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri, per cui sappiamo che la prassi conosce le cosiddette consultazioni. Cioè il Presidente della Repubblica convoca i segretari dei partiti e figure autorevoli della Repubblica come Presidenti di Camera e Senato per ottenere indicazioni circa la possibile composizione di una compagine governativa. A quel punto il Presidente conferisce un mandato presidenziale, in genere un mandato esplorativo, un mandato con riserva, che il Presidente incaricato designato riceve con la possibilità di svolgere ulteriori consultazioni e quindi di formare la sua maggioranza governativa. Una volta che il Presidente del Consiglio designato appronta la lista dei ministri con tutti gli appoggi possibili dei diversi partiti, sale al Quirinale per identificare insieme al Presidente la lista dei ministri. È importante precisare che il potere di nomina spetta al Presidente della Repubblica. Quindi si racconta che nel colloquio definitivo fra Presidente del Consiglio designato e Presidente della Repubblica sia il Presidente della Repubblica a scegliere con attenzione i singoli nomi e quindi ci sia un'interlocuzione importante sulla scelta dei ministri.